Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La riforma della scuola al voto della Camera. Renzi dice discutiamo, ma poi si decide, non si deve perdere tempo. Il garante sugli scioperi a Radio 24, lavoriamo sul boicottaggio ai test invalsi. Si fermano per 24 ore oggi i mezzi pubblici, cambiano gli orari da città a città, la protesta del sindacato USB, disagi contenuti, a Milano tutto regolare dopo la precettazione. Lucille, la Gibson nera, non suona più, è morto a 89 anni a Las Vegas B.B. King, leggenda del blues. L'allarme dell'UNESCO per l'avanzata jihadista verso l'antica città romana di Palmira in Siria, scontri ieri nella zona con l'esercito del regime di Assad. Il calcio, polemica sulle parole del presidente della Lega Dilettanti. Non si può parlare di dar soldi a queste quattro lesbiche, ha detto parlando di calcio femminile. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e il numero di sms durante la diretta, il 349-238-6666. In apertura torniamo a parlare di scuola, perché oggi il disegno di legge è approdato alla Camera, mentre per il pomeriggio è attesa una manifestazione di protesta. Dopo polemiche e proteste di sindacati e studenti sulla scuola, Matteo Renzi conferma la disponibilità al confronto, poi però si decide perché l'Italia non può più perdere tempo, avverte il Premier che in un'intervista stamattina esclude l'ipotesi di fare subito le assunzioni dei precari, stralciandole dalla riforma all'esame della Camera, perché questo, dice Renzi, trasformerebbe il provvedimento in un grande ammortizzatore sociale per i precari. A Montecitorio nel frattempo entrano nel vivo i lavori sulla riforma con le votazioni sugli oltre 1.300 emendamenti, compresi quelli presentati dalla minoranza del PD. In mattinata è stato anche approvato il primo articolo del disegno di legge. Finalmente si attua il principio dell'autonomia, commenta soddisfatta il ministro dell'istruzione Giannini. Per spiegare le ragioni della loro protesta, intanto i sindacati di categoria oggi hanno invitato i parlamentari a partecipare ad un'assemblea pubblica che si terrà nel pomeriggio non lontano dalla Camera dei Deputati. Ad intervenire sulla scuola stamattina sono anche i vescovi. Sulla riforma c'è un tentativo di confronto, l'auspicio è che non ci sia un muro contro muro, dice il segretario generale della CEI, Monsignor Galantino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo a parlare tra poco con il presidente dell'autorità per l'attuazione della legge sugli scioperi, in merito all'ipotesi di blocco degli scrutini e anche in merito al parziale boicottaggio dei test invalsi avvenuto nei giorni scorsi. Avete sentito cosa ha detto Renzi sulla scuola? Il presidente del Consiglio ha già parlato di molto altro. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, sì, proprio così Simone. Intanto iniziamo dalle pensioni, perché il Premier Matteo Renzi promette di restituire in parte i soldi delle mancate indicizzazioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ma precisa anche che la Consulta non ha detto che non si può fare il blocco alle pensioni più alte, semplicemente non si può fare in quel modo. È un problema creato da altri, ovvero dal governo tecnico, che dobbiamo risolvere, ma non metteremo le mani in tasca agli italiani, dice il Premier. Il PD non perde pezzi riguardo invece alla minoranza, siamo passati da 290 deputati a 310, ma la minoranza non è composta da galletti in un pollaio. In Liguria però preferisce far vincere Berlusconi piuttosto che votare Paita e ripete: gli impresentabili nelle liste della campagna non li avrei candidati. Riguardo poi all'ONU, si deve far sentire sulla Libia, ma Renzi è contrario all'invasione nelle coste di Tripoli. Poi sulla RAI dice che c'è spazio per una riforma, ma se non si riesce a fare le nuove nomine si faranno seguendo la legge Gasparri. Promette però di non usare il suo ruolo da segretario per imporre direttori in RAI. Questo è quanto detto allora dal Premier questa mattina. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. In apertura si parlava delle dichiarazioni di Renzi sul tema delle pensioni, su questo interviene anche il leader leghista Matteo Salvini. Dice Renzi, dice restituiremo una parte dei soldi tolti ai pensionati, una parte, vergogna, la Lega farà le barricate, bisogna restituire tutto a tutti, siamo pronti a bloccare i lavori in Parlamento. Così Salvini sulla sua bacheca Facebook. Intanto arrivano anche dei dati diffusi questa mattina dall'INPS per quanto riguarda le pensioni dei dipendenti pubblici. L'importo medio mensile delle pensioni dei dipendenti pubblici è aumentato in 5 anni di circa 100 euro, ha fatto sapere l'INPS. L'assegno ammontava in media a inizio 2011 a 1671 euro contro i 1772 delle rilevazioni al 1 gennaio del 2015. Si è parlato di possibile sciopero nel mondo della scuola, soprattutto al lato degli scrutini, ma oggi è la giornata di un altro sciopero, quello del trasporto pubblico locale, che però non riguarda Milano. Il punto. L'Unione Sindacale di Base annuncia mobilitazioni dopo la revoca dello sciopero di oggi a Milano da parte del prefetto. Le parole di Roberto Cortese, responsabile dei trasporti dell'USB. Come organizzazione sindacale inviteremo sicuramente a fare delle iniziative di protesta, che questo non significa blocco del servizio. Poi i lavoratori, quando sono arrabbiati, giustamente possono fare di tutto. Si sciopera invece per 24 ore nel resto d'Italia, differenti da città a città le fasce garantite. A Firenze fino alle 15, a Napoli dalle 14.30 alle 17.30, a Palermo fino alle 15.30, a Bologna dalle 16.30 alle 19.30. A Torino invece sciopero rimandato al 24 maggio per evitare disagi durante il Salone del Libro. Per Cortese, alta la partecipazione. Qui a Roma ci sta una fortissima adesione, sono chiuse le metropolitane, i mezzi di superficie sono pressoché assenti. Nella capitale disagi fino alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Enrico Forzinetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso della morte avvenuta ieri del re del blues, B.B. King. The King is dead. Addio B.B. King. Così è scritto sulla pagina Facebook di Umbria Jazz dopo la notizia della morte avvenuta ieri a Las Vegas del leggendario cantante e chitarrista 89enne B.B. King. Il re del blues, che è stato per ben 5 volte ospite del Festival di Perugia, l'ultima nel 2011, lascerà un grande vuoto. La sua mitica Gibson nera dal nome di donna, Lucille, non suonerà più. Considerato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi, B.B. King nella sua lunghissima carriera ha inciso 50 album in studio e tra il 1951 e il 1985 è entrato 74 volte nella classifica americana dei brani e dei dischi più venduti. Con il suo stile ha influenzato generazioni di chitarristi, a partire da Eric Clapton. Anche gli U2 lo vollero per incidere con lui When Love Comes to Town. Ha continuato fino all'ultimo la sua frenetica attività musicale perché non concepiva una vita lontano dal palco. È andato avanti sfidando il diabete e gli acciacchi dell'età. Ancora nel 2010, quando aveva già 85 anni, diceva di tenere più di 150 concerti all'anno. Membro storico della Rock and Roll Hall of Fame, nella sua carriera B.B. King ha vinto ben 15 Grammy, l'ultimo nel 2009 per il miglior disco blues. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre Adriana Fracchia ha sentito il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz. Tra il re del blues e il re della chitarra blues, però in realtà era un artista molto istintivo e poco preciso, no? E questo mandava in visibilio le folle. Devo dire che è stato uno che ha portato alla gente il blues in una maniera incredibile. Aveva cominciato tra l'altro facendo il DJ a Memphis, che era una città piena di biscazzieri, prostitute, giocatori. Comunque la cosa incredibile è che in varie occasioni anche pubbliche Ray Charles gli faceva la presa, diceva: ma come fai a aver vinto tutti questi Grammy come chitarrista che stoni? Ti diceva, ma davanti a tutti, eh? E in realtà questo importava poco alla gente, perché in realtà era un grande comunicatore, lo era anche Ray Charles, che a differenza di lui era di una precisione millimetrica e avrebbe cacciato per molto meno un suo strumentista che faceva gli errori di intonazione di B.B. King. Lui diceva di se stesso, tra l'altro si rendeva conto di questo suo limite, e in un'intervista al mio collega Vittorio Franchini, che era l'esperto di jazz del Corriere della Sera, diceva un po' di anni fa: oggi ci sono tanti ragazzi che sono 100 volte meglio di me, vorrei avere la loro tecnica, la loro velocità e anche le loro idee. Ai miei tempi noi dovevamo improvvisare tutto lavorando sulla chitarra e creandoci la nostra tecnica. Resta il fatto che tutte le volte che l'hanno invitato a Umbria Jazz, credo almeno 5, lui faceva 5.000 spettatori, che per un settore come quello del jazz è come riempire San Siro con rock, cioè voglio dire, aveva un carisma incredibile. Siamo alla cronaca con gli aggiornamenti nell'inchiesta sulla morte del ragazzo in gita a Milano. Sentiamo. Comincia a prendere forma la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte di Domenico Mauro Antonio, lo studente che ha perso la vita cadendo dal quinto piano di un hotel milanese dove era in gita scolastica. Gli inquirenti sanno chi ha dato il lassativo al ragazzo, ora si procede per lesioni colpose, morte per queste stesse lesioni e omissione di soccorso. Significa che qualcuno ha visto il giovane cadere ma non ha detto nulla. Il corpo è stato ritrovato solo verso le 8, almeno un'ora dopo il fatto. Mauro Antonio aveva bevuto e avevano bevuto anche i ragazzi della quinta E, la sua classe al liceo scientifico Ippolito Nievo di Padova. Ma quanto avessero bevuto non è ancora chiaro, per saperlo bisognerà attendere le analisi sui campioni biologici prelevati durante l'autopsia, non disponibili prima della settimana prossima. I compagni sono stati interrogati di nuovo in questura a Padova. Secondo alcuni racconti, quella notte ci sarebbe stato un festino nella camera del ragazzo e l'ipotesi più probabile sembra quella della goliardata finita male, ma il rebus della caduta resta inspiegato. Il ragazzo, miope e senza occhiali, probabilmente sotto l'effetto del purgante, avrebbe vagato per il corridoio e poi, salito sul davanzale alto 1,10 m, è precipitato nel vuoto. Sembra scartata l'ipotesi di una caduta accidentale. La traiettoria, infatti, non è stata verticale. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca, ci sono stati violenti temporali accompagnati da grandine che hanno colpito questa mattina la zona di Torino. La pioggia accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuto soprattutto nell'area della Val Pellice, della pianura di Pinerolo. A Bibbiana, Bricherasio e Campiglione Fenile sono caduti chicchi di grandine della grandezza di una noce. Ci sono stati allagamenti in alcuni scantinati, rami caduti lungo le strade, brevi interruzioni delle linee elettriche. E si trova proprio a Torino, ma non per seguire il maltempo, ma per il Salone del Libro, la nostra Alessandra Tedesco. Questa mattina sono stati diffusi i dati sull'editoria. Alessandra, buongiorno innanzitutto, che cosa emerge? Allora, emerge un cauto ottimismo, diciamo così, per quanto riguarda le vendite dei libri nei primi quattro mesi del 2015. Allora, diciamo subito, il segno è ancora meno, ma si è dimezzato rispetto alle flessioni degli anni precedenti. Cosa vuol dire? Insomma, che nei primi due mesi dei primi quattro mesi del 2015 sono stati venduti meno 4% di copie vendute. Nel 2014 però eravamo a meno 7 e così negli ultimi anni. A cosa si deve questa piccola ripresa delle vendite? Ce lo spiega Marco Polillo, presidente dell'Associazione Italiana Editori. Io credo che in realtà i motivi siano due. Uno, il fatto che c'è un alleggerimento della situazione economica generale del paese e di conseguenza la gente ha più disponibilità psicologica a spendere di quanto non avesse prima. E poi avevamo perso talmente tanto, secondo me, in questi anni che siamo arrivati al livello più basso, nel senso che noi non possiamo pensare che a un certo punto chi è abituato a leggere in maniera continuativa abbandoni totalmente questo mercato. Ridurrà un po' gli acquisti, ridurrà il tempo destinato alla lettura, ma non può scomparire. Infatti diciamo che i lettori stabili, i lettori forti rimangono piuttosto stabili, sono i cosiddetti lettori deboli, insomma, quelli che fanno diminuire le vendite. Come sempre cresce il settore dei bambini e dei ragazzi, più 6% copie vendute, ma questo succede anche negli altri paesi del mondo, come è stato spiegato stamattina da Nielsen. Va male, va sempre più male la saggistica, ma anche i manuali, meno 4, meno 5%. Altro segnale positivo che possiamo segnalare è che stanno andando bene, sono in ripresa le vendite nelle librerie indipendenti, più 2,3%. Va bene l'online, vanno meno bene le librerie di catene, ma soprattutto va decisamente male la vendita dei libri nella grande distribuzione, insomma nei supermercati, meno 15%. E grazie alla nostra Alessandra Tedesco, inviata a Torino. È scoppiato un caso su presunte offese sessiste da parte del presidente della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio, Felice Belloli, insomma, per intenderci, l'uomo che nel posto che prima era di Tavecchio, attuale presidente della federazione. In stralci di verbale di una riunione sui fondi al calcio femminile compare una sua frase nella quale dice, come vi dicevamo da titoli, non si può parlare di dar soldi a queste quattro lesbiche. E di questo parleremo subito dopo la viabilità e lo faremo con la capitana della nazionale di calcio femminile, Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La riforma della scuola al voto della Camera, è stato approvato l'articolo 1, Renzi dice discutiamo ma poi si decide, non si deve perdere tempo. Si fermano per 24 ore oggi i mezzi pubblici, cambiano gli orari da città a città, alla protesta del sindacato USB, disagi contenuti e a Milano tutto regolare dopo la precettazione. Lucille, la Gibson nera, non suona più, è morto a 89 anni a Las Vegas B.B. King, leggenda del blues già dagli anni 50. Allarme dell'UNESCO per l'avanzata jihadista verso l'antica città romana di Palmira, in Siria. Scontri ci sono stati ieri nella zona con l'esercito del regime di Assad, di questo torneremo a parlare più avanti. Ospiteremo un'archeologa italiana che guida la missione italo-siriana proprio nella città di Palmira. Saluto intanto, come annunciato prima della viabilità, Patrizia Panico. Chi è? È la capitana della nazionale di calcio femminile, insomma una donna da 107 gol in nazionale, mica poco. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. L'abbiamo chiamata perché ci sono queste frasi che stanno facendo discutere al momento presunte del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, durante una riunione sui fondi al calcio femminile, avrebbe detto: non si può sempre parlare di dar soldi a queste quattro lesbiche. Questa la frase. Lui, abbiamo provato a cercarlo stamattina, Belloli, dice: va dimostrato, dice all'Ansa, va dimostrato che quelle frasi sono mie. A quanto pare in realtà, Panico, sono a verbale queste frasi, no? Sì, va dimostrato, è chiaro, adesso c'è in corso, ci sono in corso delle indagini federali e sicuramente va dimostrato, ma ancora però il Presidente non ha preso distanze da queste frasi, quindi già soltanto smentirli sarebbe già una dimostrazione di non esserle state pronunciate. Senta, ho visto che lei si è arrabbiata molto, ho visto oggi dalle agenzie, insomma. Ma non è che mi sono arrabbiata, però si parla di calcio femminile più per queste vicende che non per chi ha vinto lo scudetto, perché ieri c'è stata la finale di Champions League, nessuno sa niente, eppure a vedere la partita c'era la Merkel, quindi in Italia siamo ancora purtroppo arenati su una mentalità troppo maschilista e queste frasi purtroppo sono molto diseducative. Ieri c'è stata la finale di Champions? Sì. Mi scusi, io non sono un appassionato né di calcio né di calcio femminile, quindi mi... Prego. Queste sono purtroppo all'ordine del giorno, i giornalisti che non sanno chi ha vinto la finale di Champions in Italia e a vedere la partita c'era la Merkel, c'era Platini. Purtroppo, ripeto, in Italia siamo troppo arenati ancora a una mentalità troppo maschilista. Sì, è vero anche che la cosa colpisce, anche perché insomma Belloli è il successore di Tavecchio, che già con la vicenda dei giocatori di colore fece le sue, come dire, il clima che si respira nella Lega Nazionale Dilettanti non è questo granché, evidentemente, no? Ma guarda, sinceramente io penso soltanto una cosa, che le giocatrici vorrebbero soltanto essere giudicate per quello che fanno, ossia come giocano a calcio, se lo giocano bene o lo giocano male. Non abbiamo mai chiesto di essere valorizzate, perché quello dovrebbe spettare alla Lega Dilettanti, visto che facciamo capo alla Lega Dilettanti, ma se il presidente della Lega Dilettanti ha questo pensiero sul calcio femminile, facciamo fatica a credere che possa contribuire allo sviluppo di questo sport. Se fosse confermato si dovrebbe dimettere? Beh, se fosse confermato penso che sia l'unica strada percorribile. L'unica strada percorribile sono le dimissioni. La ringrazio Patrizia Panico, capitano della Nazionale di Calcio Femminile. L'ultima cosa le devo chiedere: quali sono i prossimi appuntamenti della nostra nazionale? Così magari, così magari spargiamo il verbo, questo dico, insomma, prego. Guardi, adesso siamo fuori dai mondiali che si svolgeranno quest'estate in Canada, siamo uscite dal doppio confronto ai playoff contro l'Olanda e si è dimostrata sicuramente più forte di noi, e questo purtroppo ci fa male, perché fino a 10 anni fa all'Olanda insomma davamo 3-4 gol a partita e vediamo come le altre nazioni europee crescono e noi rimaniamo purtroppo ancora molto indietro, e non è un caso insomma se dobbiamo fare se dobbiamo confrontarci con questo tipo di mentalità è difficile andare avanti e competere con nazionali europee. Grazie Patrizia. Grazie a lei. Panico, capitano della nazionale di calcio femminile, numero 9 della nostra nazionale di calcio femminile. Federica Giannotta, responsabile dei diritti dei bambini di Terre des Hommes, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, salve. Oggi è stato presentato un rapporto dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza proprio sui diritti dei bambini, in parte curato da voi. Che cosa emerge? Emerge un rapporto, la prima indagine scientifica che viene realizzata per campionare quanti sono i bambini maltrattati sul nostro territorio. Beh, emerge che 457.000 bambini accedono ai servizi sociali nell'anno 2013 perché in uno stato di bisogno, e di questi 91.272 perché sono state vittime di maltrattamento. Quindi una fotografia unica nel suo genere per il nostro paese, che fino ad oggi non ha mai affrontato il tema della violenza sui bambini con un'ottica di salute pubblica e con una metodologia scientificamente valida. Quindi per la prima volta l'Italia ha una fotografia di questo fenomeno che le permette anche quindi una comparazione finalmente con l'universo degli altri paesi. E questa comparazione cosa ci porta a dire? Naturalmente mi riferisco al raffronto con paesi confrontabili con i nostri. Ma in realtà ci dice che rispetto all'Europa in generale, come numero, diciamo come media di minori presi in carico che accedono ai servizi sociali per maltrattamento sulla popolazione residente, siamo abbastanza in linea, perché siamo con 5,9 bambini presi in carico su 1000, ogni 1000 residenti, e questo è abbastanza in linea con paesi come l'Inghilterra ma anche come gli Stati Uniti. Di contro invece nelle forme specifiche di maltrattamento notiamo che vi è ancora invece una lacuna, o comunque una percentuale ancora bassa. 4 per esempio sono le violenze sessuali ogni 1000 contro i 7 degli Stati Uniti, 7 dell'Inghilterra, quindi lo stesso vale per altre forme di maltrattamento più specifico. Quindi rispetto alla capacità di identificare poi il fenomeno, nella media europea siamo ancora bassi. Quindi sicuramente questa fotografia ci deve aiutare a capire che dobbiamo rafforzare proprio il nostro potere di intervento diagnostico, questo sicuramente. La ringrazio, grazie Federica Giannotta, responsabile dei diritti dei bambini per Terre des Hommes. Mentre stavamo parlando con lei, ci ha chiamato per intervenire dopo aver sentito l'intervista a Patrizia Panico, la capitana nazionale di calcio femminile, proprio Felice Belloli, che è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, probabilmente per qualche precisazione, per dire che cosa pensa dopo queste frasi che gli sono state attribuite. Belloli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, l'ha detta questa frase sulle 4 lesbiche, l'ha detto oppure? Ho risposto chiaro ieri alla richiesta dell'ANSA e ripeto, io non l'ho detto, questo è il messaggio chiaro e tondo, anche perché io col settore femminile sto lavorando e ho fatto dei programmi, assolutamente non mi stanno attribuendo cose che non ho detto, anche su altri argomenti, anche tanto per essere molto chiaro. Cioè, ci dica. Non so, le faccio un esempio, ieri su questo articolo che io sono in contrasto con il presidente del comitato regionale Lombardia, l'amico Beppe Baretti. Guardi, ci sentiamo tutti i giorni, robe del genere, cioè poi sono fantasie che dicono. Allora, allora mi scusi Belloli, ma come è uscita questa cosa se lei non l'ha detta? Io mi meraviglio anche come possa essere uscito questo discorso qua, per me è un po' un colpe, però ripeto, adesso staremo a vedere, faremo gli accertamenti del caso e poi vedremo da farsi. Cioè, lei dice che c'è una manina che ha fatto mettere a verbale questa frase anche se lei non l'ha detta? Io dico di sì, però non posso essere certo di quello che chi ha fatto, se c'è la manina o la mano, io dico che non l'ho detto, punto e a capo, poi il resto andremo a fare gli accertamenti, anche per ammesso e non concesso, ma non mi fa intenda, come fanno uscire i documenti dalla Lega, insomma, ecco, tanto per essere molto chiaro. Lei avrà qualche sospetto, mi scusi. Senta, non mi faccia dire altro, per cortesia. quando avrò chiarito tutto, più che disponibile a dirle tutto. Quindi comunque lei questa frase non l'ha detta e non lo pensa nemmeno, non ha idee di questo tipo, no? In che senso? No, dico sul fatto di dare soldi al campionato di calcio femminile, insomma, non allora, le tratta così male. Guardi, allora, forse qua è giusto chiedere una cosa. L'anno scorso, nella stagione sportiva che si sta per concludere, la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno dato complessivamente 3.000 Lega Nazionale Dilettanti e 2.000 FIGC, 345.000 euro per l'iscrizione alle 69 società di calcio femminile di Serie A e di Serie B. Io l'ho già detto in tempi non sospetto da qualche mese, come l'ha detto anche il Presidente Vecchio, quest'anno elargizione a pioggia non se ne danno, per due motivi. Prima di tutto perché i soldi stanno scarseggiando da tutte le parti, voi sapete benissimo i tagli sono stati e il momento economico non è il migliore, prima di tutto. Secondo, riteniamo, io per primo, che sono soldi buttati, non dico buttati via, che non hanno dato i risultati sperati. Noi, io l'ho detto che il Consiglio federale, la Lega Nazionale dei Tanti darà dei contributi alle società che faranno la scuola calcio femminile, alle società che si iscriveranno per la prima volta al calcio femminile, avranno l'iscrizione gratuita da parte della Nazionale dei Tanti, in più daremo un premio, come lo facciamo per la Serie D, ai giovani, con tutto rispetto per la Patrizia Panico, che è un grande caporoniere, adesso scherzi a parte. Dunque questi sono i programmi che io, a nome della Nazionale dei Tanti, abbiamo già detto da qualche tempo. E quindi mi sembra che dal suo ragionamento l'ipotesi è che questa manina possa provenire proprio dal mondo del calcio femminile per metterla in difficoltà? Non lo so, senta, non mi faccia dire quello che non sono in grado di dirle, nel senso, potrei essere stato io, è stato lei, sono stata battuta. Guardi, ancora recentemente, nell'ultima riunione della commissione calcio femminile, la dottoressa Sensi, che è un po' la coordinatrice, ha fatto la proposta di far giocare nelle scuole romane, nelle scuole, le bambine, facendo un mini torneo. Dopo un'ampia discussione con i componenti di questa commissione, ma in modo proprio costruttivo, si è deciso di coinvolgere tutti i comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti, di fare in modo di fare questi tornei, questi mini tornei per le bambine piccole, dagli 8 ai 12 anni, e poi io ho aggiunto, come facciamo a premiarle, io a nome della Lega, voglio essere chiaro, ho detto, facciamo così, siccome nel 2016 a Reggio Emilia avremo la finale di Coppa dei Campioni del calcio femminile, ho detto, per premiare queste ragazzine qua che vinceranno nelle loro regioni il loro torneo, la Lega Nazionale dei Tanti, l'ho detto a nome della Lega Nazionale dei Tanti, verranno ospitate per un giorno o due, quello che serve per arrivare a vedere questa bella partita di finale a Reggio Emilia, questo per vedere di propagandare il calcio femminile. Aggiungo un'ultima battuta. Domenica prossima, cioè tra due giorni, in quel di Verona, in occasione della partita Verona-Empoli di Serie A, d'accordo con il presidente del Verona, Stefano Bressan, abbiamo deciso di fare la premiazione che facciamo tutti gli anni per le vincitrici della Serie A di femminile. Faremo la premiazione alle atlete, complimenti ancora, che hanno vinto il campionato di Serie A, lo faremo all'intervallo della gara Verona-Empoli, lo faremo allo stadio Bentegodi di Verona. Questo è quello, siccome ce l'abbiamo con il calcio femminile, noi siamo disponibili anche a questo, per questo. Con piacere lo faccio, non mi frega. La ringrazio, grazie a Felice Belloli anche per le precisazioni. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo, parleremo con l'autorità garante degli scioperi, faremo sentire l'intervista che abbiamo realizzato nella quale il presidente Alesse ci dice stiamo indagando anche sul boicottaggio di test invalsi, e poi parleremo con una docente dell'Università di Milano, un'archeologa che si occupa del progetto per la città siriana romana, le rovine romane di Palmira, in questo momento minacciate dall'ISIS in Siria. Intanto la pausa e poi la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La riforma della scuola al voto della Camera, approvato l'articolo 1, Renzi, discutiamo ma poi si decide, non si deve perdere tempo. È morto a 89 anni a Las Vegas B.B. King, leggenda del blues già dagli anni 50. L'arme dell'UNESCO per l'avanzata jihadista verso l'antica città romana di Palmira, in Siria. Calcio, polemiche sulle parole del presidente della Lega Dilettanti. È stato riferito che avrebbe detto: non si può parlare di dar soldi a queste quattro lesbiche parlando del calcio femminile, ma come avete sentito poco fa, lo stesso Belloli è intervenuto a Effetto Giorno e ha smentito di aver mai detto questa frase. Veniamo alla borsa. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. E siamo ancora alla riforma della scuola e alla minaccia di blocco degli scrutini. Abbiamo raggiunto il presidente dell'autorità, della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Più brevemente, autority sugli scioperi, Roberto Alesse. Guardi, mi sono limitato a ricordare quello che stabilisce l'articolo 3 della regolamentazione che si applica al comparto della scuola e che risale al 1999, quindi è un testo vigente che fu considerato idoneo dall'autorità di garanzia per gli scioperi. Questo articolo 3 vieta gli scioperi proclamati in concomitanza con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali in relazione ai cicli conclusivi di istruzione. Quindi la norma è chiara, non potevo non ricordarla, ma sono convinto che tutti gli operatori del settore sappiano questo. Nel caso questo sciopero, che magari non può anche non configurarsi come uno sciopero, ma come una forma di stop diffuso, una forma magari selvaggia, avvenisse, che cosa rischiano i sindacati e i singoli lavoratori? No, guardi, se la programmazione di questi scioperi avvenisse in contrasto palese con l'articolo che le ho citato, che è appunto l'articolo 3 della regolamentazione di settore, la programmazione sarebbe illegittima e spetterebbe all'autorità di garanzia valutare, oltre alle sanzioni, anche l'ipotesi di attivare il procedimento di progettazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 146. Quindi mi sembra di capire dai termini della legge che ci ha dato che nel momento nel quale venisse proclamato lo sciopero, la precettazione è quasi automatica, quasi obbligata. Se la proclamazione considerata, ritenuta illegittima dall'autorità di garanzia, non venisse ritirata e quindi si confermasse lo sciopero in palese violazione dell'articolo 3, si porrebbe un problema di cosa fare. Di fronte a un'azione di protesta così eclatante, che non garantisce servizi fondamentali in un settore strategico, qual è quello del comparto scuola, di interesse di centinaia di migliaia di famiglie e di studenti, si porrebbe il problema se attivare oppure no l'articolo 8 della 146, che prevede un potere di progettazione in capo all'autorità di garanzia per gli scioperi. Si porrebbe il problema, dice lei, quindi non è per nulla detto che scatti la progettazione. È un'ipotesi molto probabile di fronte ad un ritiro di un atto considerato illegittimo dall'autorità di garanzia. Ripeto, se la proclamazione venisse considerata illegittima e se lo sciopero non venisse, diciamo appunto, revocato, si porrebbe concretamente il problema di attivare le procedure della progettazione. Un'ultima domanda le voglio fare e riguarda invece quello che è già avvenuto, questa sorta di boicottaggio dei test Invalsi. Questo ricade sotto una fattispecie sulla quale l'autorità potrebbe intervenire oppure no? E questo lo stiamo valutando proprio in questi giorni, attentamente. State valutando quindi se sia un comportamento sanzionabile? Se è un comportamento che si pone in contrasto ovviamente con la legge 146 che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero. Abbiamo ancora un paio di minuti, saluto Maria Teresa Grassi, che è docente all'Università di Milano e direttrice del progetto Palma Is, che è in sostanza la missione archeologica italo-siriana a Palmira. Spero di aver messo l'accento nel punto giusto, professoressa Grassi, buongiorno. Buongiorno, sì. Tutto giusto. Allora, città rovine romane, e nemmeno troppo rovine se guardate le foto su internet, minacciate in questo momento dall'ISIS. Vorrei capire quanto è concreta la minaccia, professoressa, da una parte, e dall'altra parte che cosa rappresentano questi resti. Guardi, Palmira è stata una città importantissima durante l'impero romano, una città carovaniera a metà strada tra la Mesopotamia e il Mediterraneo. Abbiamo, professoressa, abbiamo Allora, professore Sabbia, allora abbiamo un problema tecnico, non riusciamo a sentirla, ci deve essere un problema audio. Noi ci fermiamo dunque, perché non abbiamo più il tempo sostanzialmente, ci fermiamo per il traffico e magari la professoressa Grassi proveremo a risentirla per la puntata di lunedì.